Sono le 13. GR24, il sole 24 ore. L'inflazione rialza la testa al 2,4% in Italia e in Europa, volano i prezzi dei carburanti e del petrolio, ma a preoccupare da noi è la disoccupazione giovanile ancora in crescita. Federalismo, il governo pone la fiducia sul fisco municipale, Calderoli, non devono esserci ulteriori slittamenti. Si dimette il ministro della difesa tedesco dopo le accuse di plagio della tesi di dottorato. Iara, terminata l'autopsia, non ci fu violenza, test del DNA su una decina di persone. Buongiorno da Alessio Maurizi, benvenuti a questa edizione di GR24. In apertura i dati sull'economia italiana ed europea. Preoccupare da noi, secondo il quadro fornito dall'Istat, è soprattutto la disoccupazione giovanile, che continua a crescere, anche se il dato sulla disoccupazione a livello nazionale è stabile, ma c'è anche il fronte dell'inflazione che è in rialzo a causa dell'aumento dei prezzi dei carburanti e del petrolio, che sappiamo che derivano anche dalla crisi nordafricana, di cui parleremo più avanti, ma cominciamo con i dati dell'Istat. PIL e deficit meglio del previsto nel 2010, ma intanto l'inflazione sale al 2,4%. A febbraio la nuova spinta viene da trasporti, carburanti, generi alimentari. I dati che l'Istat diffonde ogni primo marzo e servono per verificare il rispetto dei parametri per l'euro, dicono che la crescita in Italia è stata pari all'1,3%. Il deficit si è portato al 4,6%. Male il debito pubblico, che sale al 119% del PIL, e male anche il saldo primario, che al netto della spesa per gli interessi e misura la salute dei conti pubblici. Ebbene, nel 2010 è stato ancora negativo rispetto al PIL. Da Bruxelles, dove si sottolinea la minor crescita dell'Italia rispetto all'Eurozona, il commissario Olli Rehn invita il nostro paese a proseguire nel risanamento, con riforme per migliorare la competitività in moderazione salariale. Stabile all'8,6% intanto il tasso di disoccupazione a gennaio, ma quello di occupazione è sceso al 56,7% e la disoccupazione giovanile ha toccato un nuovo record al 29,4%, il tasso più alto dal 2004. Giovanni Bracco, da Radio Corpo e Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. E sul fronte inflazione, a pesare gli aumenti dei beni alimentari e dei carburanti, come dicevamo, spiega l'Istat, il prezzo della benzina è aumentato a febbraio dello 0,8% su base mensile, con una crescita annua, pensate, dell'11,8%. E il rialzo dell'inflazione, come sentivamo nel servizio, riguarda anche l'Europa, anche qua più 2,4% il dato, un dato che potrebbe anche impattare sulle prossime decisioni della Banca Centrale Europea, ma è presto forse per dirlo. Intanto però facciamo il punto sui mercati con Deborah Rosciani. Sì Alessio, buongiorno. Il 2% è la soglia massima tollerata dalla Banca Centrale Europea. Oltre il 2% si interviene sui tassi di interesse per frenare la corsa all'inflazione. Questo 2,4% sarà interessante da vedere come verrà valutato nella riunione di giovedì da parte del direttivo della BCE a Francoforte. È abbastanza certo, dicono gli economisti, che non si interverrà sui tassi di interesse questa settimana, ma è probabile che Trichet dia delle indicazioni più precise su quando la politica monetaria europea comincerà a diventare di nuovo restrittiva. Probabilmente non si aspetterà a questo punto la fine dell'anno per intervenire sui tassi con un rialzo. Attualmente i tassi in Europa sono all'1%. Il dato sull'inflazione e in Italia e in Europa non viene particolarmente guardato dai mercati azionari. Questa mattina sono tutti in rialzo, guadagnavano un po' di più per la verità nella prima parte della mattinata, adesso frenano. Abbiamo un più 0,6% a Francoforte, più 0,35% a Parigi, Londra sulla parità, Milano più 0,45%. Probabilmente di queste indicazioni ne risente di più l'euro, che sul dollaro è arrivato a 1,3854, adesso a 1,3819. Alessio. Grazie Deborah Rosciani. È stata materia di scontro anche istituzionale qualche tempo fa il federalismo municipale. Adesso il governo ha deciso che il governo porrà la questione di fiducia sulla risoluzione di maggioranza relativa proprio al test sul federalismo fiscale municipale. Poi in mattinata anche le comunicazioni del ministro Calderoli alla Camera. Facciamo il punto con Elisabetta Fiorito. Buongiorno. Sì, buongiorno Alessio. Allora, il governo porrà la fiducia sul provvedimento che riguarda il federalismo fiscale municipale alla Camera. Oggi pomeriggio probabilmente la fiducia verrà chiesta in aula dal ministro dei rapporti con il Parlamento Elio Vito sulla risoluzione di maggioranza che recepisce la relazione del ministro Calderoli. La decisione è stata presa dopo un vertice tra il premier Berlusconi, Tremonti, Bossi e Calderoli. E per il ministro Calderoli il fisco municipale non porterà nessuna nuova tassa. Infatti per la Lega comunque la fiducia è necessaria, sentiamo perché dal capogruppo Marco Reguzzoni. Ma il federalismo municipale è un decreto che cambia radicalmente l'impostazione di tutti i nostri comuni, è un provvedimento che è al primo punto dell'azione di governo, quindi nulla di strano che il governo metta la fiducia perché si tratta di un voto troppo importante. L'opposizione protesta, per l'Italia dei Valori è l'ennesimo schiaffo al Parlamento, critico anche il Partito Democratico, sentiamo Enrico Letta. È un errore la blindatura della fiducia, perché questo vuol dire che non vuole dialogare il governo e soprattutto non si rende conto del fatto che questa è una grande riforma istituzionale. Riforme istituzionali fatte a maggioranza di un voto non vanno da nessuna parte, non sono mai andate da nessuna parte nella storia italiana. Quindi noi diciamo al governo fermatevi, perché teniamo tutti a un buon federalismo, ma così si creano le condizioni perché il federalismo non sia un buon federalismo e tutto si blocchi. In attesa quindi della questione di fiducia che verrà posta probabilmente oggi pomeriggio e quindi la fiducia verrà votata domani pomeriggio. Bisogna infatti che trascorrano 24 ore tra la richiesta e il voto. Per il momento qui da Montecitorio è tutto, a voi studio. Grazie Elisabetta Fiorito, e adesso andiamo all'estero. In Libia si fa sempre più concreta l'ipotesi di un intervento della NATO per impedire un disastro umanitario nel paese, così almeno riferisce oggi il Times, anche se ieri il segretario di Stato americano Clinton ha escluso azioni militari almeno che coinvolgano gli Stati Uniti, ha detto la Clinton. L'alto commissariato dell'ONU per i rifugiati però riferisce che dal 20 febbraio scorso circa 75.000 persone sono fuggite dalla Libia verso la Tunisia. C'è bisogno di trasporti per scongiurare appunto una crisi umanitaria. Andiamo in Libia per capire qual è la situazione, per capire chi controlla adesso il paese tra i miliziani che difendono Gheddafi e i rivoltosi. Andiamo con l'inviato del Sole 24 Ore, Ugo Tramballi. Buongiorno Ugo. Buongiorno, in realtà io sono a Ras Ashdid, giusto alla frontiera fra la Tunisia, la principale frontiera fra la Tunisia e la Libia. Attorno a me ci sono migliaia, forse centinaia di migliaia di, probabilmente di egiziani, di marocchini, di tutta gente che è appena passato la frontiera e che la polizia e l'esercito tunisino non riescono a controllare. Oramai l'esercito usa le armi, sparando naturalmente in aria, impedisce alla gente di avvicinarsi, ma chiaramente non riescono a tenere una situazione che dal punto di vista umanitario sta diventando sempre più disastrosa. La gente continua ad arrivare attraverso la frontiera libica e i tunisini non sanno veramente più che cosa fare, si moltiplicano le tendopoli, ma anche le tendopoli non bastano, e qui arriva gente affamata, si vede sempre più gente con le mascherine sulla faccia, nel temendo che ci possa essere la diffusione di malattie. È una situazione francamente vista là da qui è piuttosto biblica, raramente è capitato di vedere così tanta gente disperata in attesa di un passaggio per andare da qualche parte, per tornare sostanzialmente a casa. Ugo, invece per quanto riguarda il fronte appunto militare, come dicevamo, ci sono notizie di giornata per quanto riguarda per esempio l'avanzata verso Tripoli dei rivoltosi, e che effetto fa da lì il fatto che si parli di possibili azioni dall'esterno? Ma tutto fa credere che in realtà più che un'avanzata delle forze ribelli ci sia se non una controffensiva, comunque sicuramente una riaffermazione sul territorio da parte invece del regime. Qui nella parte libica dell'ovest, verso la frontiera tunisina, i posti di frontiera, come anche quello che avevo attraversato ieri più a sud, sono stati di nuovo presi sotto il controllo dell'esercito. I villaggi, i paesi che si erano ribellati, e molti sono ora circondati dall'esercito fedele a Gheddafi. Anche quello che sta avvenendo qui sulla frontiera dimostra un aumento di tensione che probabilmente è dovuto anche al fatto di una riaffermazione del potere da parte delle forze armate degli Gheddafi. Grazie Ugo Tramballi, allora dal sud della Libia, e ti risentiremo sicuramente più avanti nel corso di questa giornata, le prossime edizioni di GR24. Adesso invece ci spostiamo per tutt'altro argomento al Salone dell'Auto di Ginevra, perché c'è attesa, vabbè, stasera per i dati sull'auto, anche se ci sono state delle anticipazioni sull'andamento del mercato, e soprattutto buongiorno Andrea Malan intanto del Sole 24 Ore. Buongiorno a tutti. Anche per la presentazione dei nuovi modelli, soprattutto per quanto riguarda Fiat, Lancia Y, ma anche tutti gli incroci, diciamo gli intrecci con la casa americana, con la Chrysler, e più il menu vede anche le dichiarazioni di Marchionne. Andrea, andiamo con ordine. Sì, diciamo che stamattina è stata una vera e propria raffica di presentazioni, dall'Alfa 4C, la nuova sportiva, con la Fiat Fremont basata su una modello della Dodge, ai ben 5 modelli della Lancia, di cui la Y prodotta in Europa, in particolare in Polonia, su piattaforma europea, e una serie di modelli della Tema alla Flavia, appunto di origine Chrysler. Quindi una grossa scommessa quella che fa Lancia per dare una gamma completa a questo marchio e per cercare di recuperare posizioni in Europa, questa forte integrazione con la Chrysler, con appunto dei modelli sovrapposti, i modelli più piccoli di origine europea, i modelli più grandi, tra cui l'ammiraglia, appunto la Tema, che ricorda un modello molto glorioso degli anni Ottanta, di origine americana. Per quanto riguarda il mercato, come hai detto, le cose sembrano non vadano molto bene. A febbraio il mercato italiano dovrebbe aver chiuso a 158.000 unità, con una quota Fiat al di sotto del 30%. Fiat risente sicuramente della passaggio appunto di gamma, dell'uscita di gamma di alcuni modelli alla fine dell'anno scorso, e di un confronto che rispetto a un anno prima vedeva ancora gli incentivi che quindi favorivano le macchine di piccola cilindrata. Per quanto riguarda l'insieme del salone, possiamo dire semplicemente che è il salone della ripresa, con 170 nuovi modelli e un'atmosfera genericamente più ottimista dell'anno scorso, anche se c'è una grossa ombra all'orizzonte, ed è quella di un'eventuale prosecuzione delle tensioni in Medio Oriente, quindi nei paesi arabi, con un prezzo del petrolio che potrebbe appunto rimanere a prezzi elevati. Si diceva stamattina per esempio che alcuni costruttori stanno già disegnando degli scenari nell'eventualità che il petrolio rimanga stabilmente a $160 al barile. Bene, grazie allora Andrea Malan, che come sentivamo in collegamento dal Salone dell'Auto di Ginevra. Adesso parliamo di sport, prima della pausa, prima della seconda parte di GR24, perché ieri sera abbiamo vissuto probabilmente un momento decisivo per il campionato di calcio di Serie A. Il Milan ha stoppato le ambizioni del Napoli. Dario Ceccarelli, così? Hai detto bene Alessio, oltre alla tripletta i rossoneri hanno esibito una prova di muscoli che toglie ogni dubbio, cioè che Napoli sia una terza forza tra Milan e Inter. Troppo evidente il divario, troppe le differenze di uomini e mentalità. Un match a senso unico, anche se il Milan ha sbloccato il risultato con un rigore per il tocco di braccio di Aronica. Da questo momento la squadra di Allegri ha dominato, tanto che Abbiati, il portiere, non ha mai dovuto fare un intervento significativo. Può darsi che Napoli, meno strutturata come squadra, abbia patito l'impatto della cornice della grande sfida, tanto che Allegri, nonostante Napoli sia ormai a meno 6, gli dà ancora qualche chance. Sentiamolo adesso. Sicuramente è un buon vantaggio, però mancano ancora molte partite, abbiamo ancora il derby da giocare, il Napoli è ancora in lotta per il campionato, quindi credo che bisognerà continuare così. Ora siamo quasi tutti al completo, con gli infortunati che sono rientrati, a parte Ambrosini, Pirlo e in questo momento Antonini e Bonera, e credo che per noi è molto importante. Sì, evasa la pratica Napoli, è chiaro che la vera rivale dei rossoneri è ormai solo l'Inter. Ma dell'Inter non sarà così facile liberarsene. Il Milan, infatti, pur con la sua strapotenza, direi che ha sprecato lo sprecabile. E forse questo deve far riflettere, perché con l'Inter, che è a meno 5, non sarà facile avere tutti questi lussi. Mancano 3 partite al derby e di sicuro, mai come adesso, il calcio italiano è un affare tra le milanesi. 13:17 minuti, GR24, ben ritrovati. Nella prima parte abbiamo parlato dei dati dell'Istat, l'inflazione che rialza la testa al 2,4% in Italia, ma anche in Europa volano i prezzi dei carburanti e del petrolio. A preoccupare però in Italia è la disoccupazione giovanile ancora in crescita. Sul fronte politico, il federalismo, il governo pone la fiducia sul fisco municipale. E poi siamo andati in Libia dove come abbiamo sentito c'è una emigrazione di massa verso i confini della Libia, verso l'estero, a causa dei conflitti interni. Adesso tutte le altre notizie. A cominciare dalla cronaca italiana e dalle indagini e gli esami scientifici che dovranno stabilire chi è il responsabile dell'omicidio di Yara Gambirasio. Sentiamo. Sono una decina i profili genetici che andranno confrontati con le tracce ritrovate sul corpo di Yara Gambirasio. Appartengono ad altrettante persone sospette già individuate in questi 3 mesi di indagine. Persone che abitano nei dintorni di Brembate di Sopra, tutte con precedenti per aggressione a sfondo sessuale. Se Yara è vittima di un maniaco, ritengono gli inquirenti, è qualcuno della zona e dalla comparazione del DNA potrebbe arrivare la svolta tanto attesa. Terminata nella notte all'Istituto di Medicina Legale di Milano l'autopsia, il lavoro degli esperti prosegue sui reperti isolati per confermare quanto emerso dai primi rilievi, che Yara, cioè, non abbia subito violenza sessuale, che sia stata uccisa a coltellate in un disperato tentativo di difendersi e che il suo corpo sia stato abbandonato subito dopo l'omicidio il giorno della scomparsa, il 26 novembre scorso. Prosegue intanto l'analisi dei tabulati sulle celle telefoniche di Brembate, Mapello e Chignolo e dei filmati delle telecamere di sorveglianza dell'azienda proprietaria del campo in cui sabato è stato ritrovato il corpo della ragazza. Maria Luisa Pezzali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E ora, sempre con la cronaca, ci spostiamo a sud, in Calabria, dove c'è stata un'altra vittima a causa del maltempo. Un uomo morto a Reggio Calabria, frazioni isolate, viabilità danneggiata, famiglie isolate e il bilancio della nuova ondata di maltempo che ha colpito stamattina la Calabria e in particolare la città di Reggio Calabria, dove una persona è stata travolta da una frana in località Villa San Giuseppe nella zona di Petto Gallico. Era a bordo di un'auto che è stata travolta dal fango e dai detriti fino a capovolgersi. Frane e allagamenti sono segnalate in varie frazioni della città ed è isolata la frazione di San Batello. 15 persone sono state invece soccorse dai vigili del fuoco a Vibo Valentia dopo che erano rimaste bloccate in auto nelle proprie abitazioni a causa di allagamenti. Tutta la fascia tirrenica comunque è coinvolta in queste ore da una forte ondata di maltempo e l'ANAS è stata costretta a chiudere la statale 18 a Vibo e tra le località di Scilla e Favazzina nel Reggino. Filippo Veltri, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Reggio Calabria. E ora una vicenda che riguarda la Germania che, vista dall'Italia, può apparire forse incomprensibile. Parliamo delle dimissioni del ministro della difesa tedesco Gutenberg, dimissioni annunciate perché lo sapete, è stato accusato di aver plagiato la tesi di dottorato. È finita almeno per ora la carriera ministeriale di Karl Theodor zu Gutenberg, accusato di avere copiato almeno in parte la sua tesi di dottorato in giurisprudenza. Stamani si è dimesso da ministro della difesa. «Sono sempre stato pronto a lottare, ma ho raggiunto il limite dei miei poteri», ha detto il 39enne Gutenberg in una dichiarazione pubblica. L'uomo politico cristiano-sociale bavarese lascia il Ministero della Difesa nonostante lo scandalo di cui è stato protagonista non abbia inficiato la sua grande popolarità. Il mondo accademico e l'establishment politico lo hanno però messo sotto straordinaria pressione. La partenza di Gutenberg giunge in un momento politico delicatissimo per il governo democristiano-liberale del cancelliere Angela Merkel. Questo mese 3 regioni si recheranno alle urne per rinnovare il Parlamento locale. È forte il timore che la coalizione al potere possa subire una serie di sconfitte. Ancora non è chiaro quale ruolo giocherà la vicenda Gutenberg. Beda Romano, GR24, Il Sole 24 Ore, Francoforte. E ora un approfondimento che riguarda le energie rinnovabili e lo scontro tra il ministro dello sviluppo economico Romani e quello dell'ambiente Prestigiacomo. Prestigiacomo dice: abbiamo assunto un impegno a livello europeo, lo manterremo, ma a quello che si sa c'è un impegno del governo che dovrebbe essere mantenuto oggi con il preconsiglio dei ministri, un decreto legislativo che, denunciano le associazioni di categoria, bloccherà lo sviluppo delle rinnovabili in Italia. Sentiamo. Interrompere il meccanismo degli incentivi sulle energie rinnovabili, lo dice il ministro dello sviluppo economico Paolo Romani, mentre il titolare dell'ambiente Stefania Prestigiacomo dice che nessuna marcia indietro sugli impegni europei può essere presa, dunque scontro sul decreto in materia che sarà in discussione nel preconsiglio dei ministri, contro il quale hanno manifestato ambientalisti e aziende. Legambiente dice che il disegno è quello di boicottare le rinnovabili e favorire il nucleare. L'energia rinnovabile è invece un volano per l'Italia, e non solo per l'energia prodotta ma anche per i servizi venduti, dicono così gli imprenditori del settore. Simone Togni è il presidente dell'Associazione Nazionale Energia Eolica. Certamente un taglio del 30% retroattivo, come può capire chiunque di noi, cioè è come se vi dicessero dalla mattina alla sera: tu hai firmato un contratto per 15 anni, io decido oggi di tagliarti del 30% quello che abbiamo pattuito per il resto della tua vita. È ovvio che questo comporta che uno non possa far fronte agli impegni che nel frattempo ha preso, nello specifico nel ripagamento delle banche per l'investimento effettuato. È un qualcosa che non solo ucciderà il nostro settore, ma in più certamente farà fuggire quei pochi, che ancora ci sono, investitori che nel mondo devono essere attratti nel nostro paese. Questo si chiede di fare, insomma. Senza il piano incentivi, produttori e associazioni parlano di un crollo per il fotovoltaico con oltre 120.000 posti di lavoro a rischio. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio in queste ore sul fronte delle energie rinnovabili sembra aprirsi un nuovo mercato in Gran Bretagna. Gli incentivi dovrebbero arrivare quest'anno a Londra, dove è in corso la fiera per lo sviluppo sostenibile EcoBuild, che appunto si apre oggi. La rappresentanza delle aziende italiane, pensate, è passata da 16 a più di 100. Laura Bettini ne ha parlato con Giuseppe Paoletti, segretario della Camera di Commercio italiana a Londra. Il grosso incentivo è stato dato anche proprio dal governo inglese, che quest'anno ha stanziato per la prima volta il conto energia, che non era mai stato proposto al mercato inglese. Prendere il conto energia è esattamente lo stesso di quello che abbiamo proposto in Italia, il nostro governo in Italia qualche anno fa. Quindi molte delle aziende italiane che sono in questo momento a Londra sono impegnate nel settore delle rinnovabili in generale, diciamo. Assolutamente, sì. Nella manifestazione in generale, che conta più o meno 1200 espositori, c'è una grossissima maggioranza, c'è un grossissimo focus su tutte le produttori di inverter e pannelli solari, che prende più o meno quasi il 20% di tutta la superficie espositiva. E che quindi è ben rappresentata dall'Italia, altrimenti non sarebbe stata invitata, diciamo. Infatti l'Italia è stata invitata, e anche dimostrazione di quanto siano felici di ospitare tutte queste aziende italiane. Il padiglione italiano è proprio messo all'ingresso. E ora in chiusura invece un appuntamento: da domani fino a Bologna il mondo dei fumetti è il protagonista assoluto, appunto a Bologna, con la quinta edizione del Bill Ball Bull, il festival internazionale di fumetto a cura dell'associazione culturale Hamlin. Vera novità di quest'anno, un programma pensato per i bambini. Emilio Varrà, che è organizzatore della rassegna, parla al microfono di Adriana Fracchia. Quest'anno abbiamo quadruplicato la programmazione per i bambini e i ragazzi, e questo è sicuramente il fattore più nuovo del festival ed è anche un fattore che vorremmo sviluppare man mano nelle edizioni future, e per due motivi. Uno, perché la situazione del fumetto in Italia per i bambini rispetto ad altri paesi è molto più carente ed è su questo che vogliamo puntare il dito. Due, perché il nostro festival ha sempre avuto anche una funzione di carattere divulgativo e bisogna partire dai piccoli per creare i futuri lettori, quindi questo è un grosso obiettivo. Tra gli ospiti ci sarà Émile Bravo, un grandissimo artista francese con i suoi libri per i piccoli, e una mostra dedicata ai Moomin, che sono un classico della letteratura per l'infanzia e del fumetto per bambini finlandese. Poi dopo abbiamo i due grandi ospiti di quest'anno che sono sempre al Museo Archeologico e saranno dedicate le due mostre a José Muñoz, uno dei più grandi disegnatori e fumettisti in assoluto nella storia del fumetto argentino, il creatore di Alex Sinner. L'altro protagonista sarà invece Vanna Vinci, una delle esponenti del fumetto bolognese. Ultimissima cosa è il rapporto tra fumetto e letteratura, che è invece il tema. Ed è tutto per questa edizione di GR24. Alessio Maurizio in studio, Pietro Lacorte in regia. Vi augurano buona giornata. Vi lasciamo all'Italia in controluce. GR24, il sole 24 ore. Direttore Fabio Tamburini.